America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I'm going to eliminate every non-essential expensive program I can find. That includes Obamacare, and I'm going to work to reform and save. Beh, devo dire che Mitt Romney ha avuto un bel coraggio, perché pensate, si è presentato alla NAACP Convention, che sta per la National Association for the Advancement of Colored People, quindi l'associazione degli afroamericani riuniti nella loro convention annuale a Houston, la 103esima convention annuale, per dire che insomma era meglio lui come presidente e che forse avrebbero fatto meglio a mandare a casa Barack Obama. Ecco, fino a un certo punto, devo dire, l'assemblea così l'ho ascoltato, è stata anche piuttosto moderata, fino a che a un certo punto ha detto appunto le parole che vi ho fatto ascoltare prima: bisogna smetterla di spendere migliaia di miliardi di dollari che non possiamo permetterci, quindi per prima cosa, se sarò eletto, eliminerò tutti i programmi federali non strettamente necessari come Obamacare. A quel punto è venuto giù il tetto e il povero Romney è rimasto anche stranamente basito da questa reazione, come dire: ma cosa ho detto? Ecco, vi ho fatto questo esempio perché non è la prima volta che Mitt Romney, diciamo, fa degli errori piuttosto grossolani dal punto di vista dell'immagine. E soltanto qualche giorno fa si è fatto vedere sul jet ski, c'era qualche giorno di vacanza a cavallo del 4th of July, e allora mentre Barack Obama girava come una trottola per vari stati, ha ospitato varie delegazioni alla Casa Bianca e poi è andato a fare comizi negli stati chiave, Romney si è preso una vacanza, e quindi le immagini televisive facevano vedere Barack Obama al lavoro e Mitt Romney prima su questo enorme barcone e poi mentre andava in giro sul jet ski. Ecco, questa immagine mi ha ricordato un momento chiave delle elezioni del 2004, quando John Kerry voleva correre, prendere il posto di George W. Bush, e durante la sua vacanza si fece vedere a fare il windsurfing e così sculettava un pochino con questo windsurf, con le telecamere che lo ripresero, e di nuovo, mentre George W. Bush andava in giro e faceva comizi e si dava un grande affare, e si vedeva questo candidato democratico così che insomma faceva il suo windsurf. In questo caso le parti politiche sono invertite, perché è Romney a essere un repubblicano che così pecca un po' di leggerezza. Però si tratta di aspetti che, messi tutti insieme, non aiutano. Mi è capitato di parlare proprio l'altro giorno con un grosso donatore repubblicano, il quale era scandalizzato. Dice che la strategia dei manager di Romney stesso stanno sbagliando, non possono. Dice: ma dove aveva la testa quando si è fatto vedere sul jet ski? Quello deve stare a lavorare. Ci sono delle elezioni, ma non solo. Un altro punto debole. It's a huge, huge victory for President Obama and for the Democrats who worked very, very hard to enact the health care reform law, what the critics have often called Obamacare. Vi ricordate la sentenza della Corte Suprema quando il giudice Roberts, il capo dei giudici della Corte Suprema, decise di dare la luce verde per la riforma sanitaria di Barack Obama? Ecco, fu un momento di svolta, tutti furono molto molto stupiti, perché si pensava che non ci fosse dubbio che la Corte avrebbe bocciato questa proposta di legge, ma ci furono alcune parole interessanti in quella sentenza, e cioè Roberts disse: uno, la Corte deve solo giudicare la costituzionalità di questa legge, non giudica la bontà di questa legge. La bontà di questa legge deve essere giudicata attraverso il Parlamento e le elezioni. Secondo punto, secondo Roberts, il cosiddetto mandato individuale, quello che obbligava la gente a comprare l'assicurazione, non era una penalità, cioè ti obbligo a pagare dei soldi per comprare questa polizza, ma era una tassa. Ecco, ci fu grande polemica, ma dopodiché la grande intelligenza repubblicana disse: ah, ecco, era una tassa, dunque attacchiamo Obama sulle tasse. Obama passa una riforma sanitaria che impone un aumento fiscale per gli americani. Nulla di tutto questo. I consiglieri di Romney hanno cominciato a dire: no, che in fondo non era una tassa, ma era una penale. Di nuovo il mio interlocutore con cui ho chiacchierato l'altro giorno è scandalizzato. Dice: ma come, questi sono dei dilettanti? Lo stesso Roberts dice che è una tassa e loro non lo riconoscono. Ecco, Alla fine di questo percorso, diciamo così, accidentato, difficile, che si è concluso ieri con questi boati contro Romney, c'è un altro scivolone. In Screwed News we turn to the ongoing and growing LIBOR scandal. This is what you need to understand about LIBOR. Lo scandalo LIBOR, il LIBOR è il tasso di riferimento per i mercati europei, LIBOR Barclays, perché ricorderete che c'è stato questo scandalo secondo cui la Barclays Bank manipolava i tassi di interesse. Allora, che succede? Succede che Mitt Romney decide di andare a Londra e fare il suo debutto internazionale, un viaggio importante perché poi lo porterà anche in Israele, forse anche in Germania. Barack Obama non è mai stato in Israele, ma soprattutto Romney arriva a Londra proprio alla vigilia delle Olimpiadi. Ricorderete che uno dei suoi grandi risultati dal punto di vista politico fu quello di guidare il Comitato Olimpico americano durante le Olimpiadi di Salt Lake City. Dunque c'era un collegamento molto diretto tra lui e queste Olimpiadi britanniche. Di più, ricorderete che a un certo punto Barack Obama nel 2009 andò a Copenaghen con la moglie, con Michelle, a implorare il Comitato Olimpico perché gli Stati Uniti fossero scelti come destinazione delle Olimpiadi del 2016 e in particolare Chicago, che era la città candidata, la sua città. Ecco, era la prima volta che un presidente americano si recava davanti a un Comitato Olimpico di persona, prendendo l'aereo, per chiedere così di essere accettati. Tutti immaginavano che con Obama che prende questa decisione di partire vuol dire che ha la vittoria in tasca, e invece chi ha vinto? Ha vinto il Brasile, e Obama se n'è tornato a Washington con la coda fra le gambe, con le pive nel sacco. Dunque questo poteva essere un momento di apoteosi per Romney, perché ecco lui il grande trionfatore delle Olimpiadi, legato a queste Olimpiadi di Londra, mentre invece il suo concorrente era andato a farsi umiliare dal Comitato Olimpico. Eppure che succede? Beh, succede che, come sempre capita, il diavolo ci ha messo la coda. E ce l'ha messa come? Beh, perché secondo me alla fine Romney ha peccato di avidità. Ha voluto fare un fundraising event a Londra, e questo fundraising event era piuttosto impegnativo. Intanto potevano essere soltanto degli americani a partecipare, ma il costo del biglietto per la cena era fra i 50.000 e i $75.000. Chi era il presidente della cena, il presidente del comitato d'onore? Bob Diamond, amministratore delegato di Barclays Bank, direttamente collegato allo scandalo sulle truffe sull'LIBOR. Ecco, questa cosa naturalmente ha paralizzato la campagna di Romney. Ieri abbiamo saputo che il nome di Diamond, che ha dovuto dare le dimissioni non più tardi di 3-4 giorni fa, è stato frettolosamente cancellato dal programma, ma naturalmente i democratici ne hanno approfittato. Mitt Romney, è uscito un articolo di Vanity Fair appena la settimana scorsa, Mitt Romney aveva dei conti offshore alle Cayman Island. Come mai aveva dei conti offshore alle Cayman Island? Un editoriale del New York Times uscito ieri mattina attaccava di nuovo Romney, dicendo: un presidente americano, non c'è stato mai un candidato alla presidenza americana che avesse dei conti offshore. C'è poca chiarezza nei suoi conti. Ecco, dopo i boati, dopo il jet ski, dopo la mancata strategia sulle tasse, si aggiunge anche questa piccola gaffe. Ecco, per Romney non è stata una settimana fortunata. Small businesses are the heart of the American economy. They're responsible for half of all private sector jobs. And they create roughly 70% of all new jobs in the past decade. Barack Obama invece, devo dire, è andato piuttosto bene. Ieri ha fatto una proposta molto interessante, ha tenuto il focus sull'economia e ha detto che le piccole e medie imprese debbono ricevere, non più in 30 giorni, pensate imprenditori italiani, il governo americano paga le aziende americane in 30 giorni, e il presidente dice: non devono essere più pagate in 30 giorni dal governo, ma devono essere pagate in 15 giorni. Quindi ha cercato di accelerare i tempi di pagamento. Ha chiesto che la Small Business Administration, che è un'entità federale che si occupa dell'aiuto per le piccole e medie imprese, aumenti il tetto sul credito che dà le piccole e medie imprese da $250,000 a $350,000, e una serie di altre piccole iniziative di questo genere. Devo dire, nell'insieme non sono delle cose rivoluzionarie, però il contrasto è evidente. Da una parte Romney, che poveretto gli sono andate un po' tutte storte, dall'altra Obama, che resta focalizzato sul suo messaggio economico. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, in onore del 60° anniversario di Singing in the Rain, che ricorre quest'anno. Oggi, in quasi 500 cinema in tutta America, si terranno le proiezioni speciali del grande classico con Gene Kelly, Donald O'Connor e Debbie Reynolds. La nuova edizione rimasterizzata del film uscirà in Blu-ray il 17 luglio, dunque, di Gene Kelly, Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!